Effetto Mondo. Yesterday the China virus poses the greatest threat to our senior citizens, as we all know. The median age for those who die from the virus is 78 years old. E con la voce di Donald Trump iniziamo questo Effetto Mondo con Giulia Crivelli. Giulia. Ciao Marta, che piacere. Il nostro amico Donald Trump ieri ha iniziato questa lunga conferenza stampa annunciando la notizia che abbiamo sentito dell'accordo da 100 milioni di dollari con la Pfizer per il vaccino, e poi ha dato delle statistiche sulla mortalità a seconda dei gruppi di generazionali, e sappiamo il coronavirus colpisce soprattutto le persone in età avanzata, oltre a tutti quelli che hanno malattie pregresse. Ma è tornato, e lo sottolineano tutti, a parlare questa volta di China virus, l'ha chiamato in passato Kung Flu, addirittura due giorni fa l'aveva chiamato China Plague, la piaga cinese. Quindi insomma resta questo tentativo di identificare la Cina nel giorno in cui viene chiusa un consolato cinese a Houston con accuse di spionaggio, a identificare la Cina come il nemico per tutti i fronti, ecco. Beh, devo dire, non è un caso. Il governatore della Georgia ha fatto causa. Sì, non ho capito. Ascoltiamo quest'audio e poi ti chiedo di spiegarmi che cosa è successo. This governor is suing me personally for making voluntary recommendations to people on phase guidelines, and these guidelines are based on where we are with COVID. Allora, io ho capito una cosa, adesso dimmi se è vero o non è vero, ma negli Stati Uniti sembra che l'obbligo della mascherina sia quasi diventato un segno di riferimento di appartenenza politica più che di salute. Sì, Donald Trump l'ha sfruttato finché ha potuto, e ci sono stati anche in Idaho e altri stati che magari conosciamo poco, di quella cosiddetta profonda America, dove hanno organizzato dei roghi, ma non erano roghi di libri, che sarebbe stato altrettanto grave, ma roghi di mascherine. Il tema dell'obbligatorietà delle mascherine c'è fin dall'inizio, nessuno, né Fauci, né il CDC, nessun altro ha mai parlato di obbligo, ma sempre di recommendations. Lo stesso ha fatto quindi di raccomandazioni, come aveva fatto del resto Boris Johnson. Non ci sono multe, tranne che in alcune città. E il sindaco di Atlanta, che è una donna afroamericana positiva al Covid, il cui marito a sua volta è risultato positivo al Covid, e mentre lei è di fatto asintomatica, il marito non sta molto bene, capitale dello Stato, 500.000 abitanti, ha deciso di fare queste strong recommendations per tenere la mascherina soprattutto nei luoghi pubblici, nei ristoranti. Il governatore dello Stato, che invece è repubblicano, le ha proprio fatto causa, dicendo che è una violazione delle libertà civili. Un po', diciamo, fuori tempo con il suo referente politico, che è naturalmente il presidente Trump, che non soltanto si è presentato per ben tre occasioni, non alla conferenza stampa di ieri, ma in altre tre occasioni con la mascherina, ma addirittura ha detto che indossare la mascherina è patriottico in questo momento, senza di nuovo dire vi obbligo a farlo. Beh, però è già un passo in avanti. Assolutamente. È già un passo in avanti. Vogliamo passare al Regno Unito? Sì. Abbiamo parlato della regina abbondantemente. Volevo solo, sì, perché so che tu ami insomma scoprire un po' le curiosità dell'inglese. L'ultima cosa dagli Stati Uniti, sì, è questo editoriale di Thomas Friedman sul New York Times, che si intitola Walk the Dog by Starting a War at Home. Walk the Dog è un'espressione che grammaticalmente non regge, ma che letteralmente vorrebbe dire la coda sta scodinzolando il cane. Ma è un'espressione per dire che si crea un diversivo, e spesso i presidenti lo fanno quando sono in difficoltà. Nel caso del presidente Trump questi disordini, in particolare nello stato dell'Oregon, che lui dice di voler sedare mandando, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, delle truppe speciali. Ci sono le foto sul Washington Post ed è una questione molto controversa. Ma come giustamente dicevi tu, facciamo un salto, e un po' sul Guardian troviamo un'altra Trump. Questa volta è Mary Trump, che è la figlia del fratello maggiore di Donald, che è morto a 42 anni per le conseguenze di decenni di alcolismo. Ha scritto un libro tremendo sullo zio, ne abbiamo parlato, e ovviamente il mercato più attiguo è quello del Regno Unito. Certo. Ma Poi c'è anche il Liverpool, anche qui che sapete che ha vinto il campionato, la Premium, insomma, l'equivalente della Serie A britannica, e cioè, i tifosi indossano questa maglietta dove lo slogan è City couldn't stop us, neither could Corona, cioè il Manchester City non è riuscito a fermarci e non ha potuto farlo neanche il coronavirus, quindi insomma un modo anche con una leggerezza, se vogliamo, giustificata per una vittoria che i tifosi del Liverpool hanno aspettato da 30 anni, e quindi insomma queste magliette così per i festeggiamenti. Beh, mi piace molto. Di cosa vogliamo parlare? Perché vogliamo a che io sto curiosando su tutte le tue prime pagine. Ma guarda, se vuoi, visto che poi appunto tu sei un po' la regina di tutto quello che è cultura nel senso più ampio del termine qui a Radio 24, anche musicale, anche teatrale, Soprattutto cinematografica, molto popolare, allora. c'è questo grande allarme nel Regno Unito e lo lancia soprattutto l'Independent, perché è vero che, e tra l'altro rispetto a quello che ha fatto l'Italia è molto di più, ma è meno rispetto a quello che ha fatto la Germania. Per esempio, è vero che c'è stato un piano da 1,5 miliardi di aiuti per l'industria culturale, soprattutto tutte quelle parti che hanno dovuto rinunciare alle performance dal vivo o, come i musei, le gallerie d'arte, al pubblico. Ma non basta, tanto che l'Independent titola, un gruppo di parlamentari ha proprio lanciato l'allarme: il Regno Unito potrebbe diventare una cultural wasteland, una terra deserta dal punto di vista culturale. Perché anche se hanno riaperto alcuni musei, lo sappiamo bene anche qui, gli ingressi sono contingentati, quindi anche se ci sono gli aiuti di Stato non bastano, su tutti i concerti c'è, e anche tutte le discoteche, ne ha parlato anche Alessio qui a effetto giorno, c'è un grande punto interrogativo, quindi vediamo se Boris Johnson avrà un occhio di riguardo, un altro occhio di riguardo per l'industria della cultura. E vedo che allora i problemi che si stanno un po' ripetendo in vari paesi. Dove mi porti Ma adesso, guarda, Giulia? con un po' di dolore vi porto in Germania perché, viste un po' le mie origini, questa è una vicenda molto dolorosa per i tedeschi, nel senso che è il caso di non un truffatore, un super truffatore. Parliamo dell'ex fondatore ed ex amministratore delegato di Wirecard, Michael Braun. Non soltanto è stato arrestato e poi rilasciato con una cauzione di 9 milioni di, 9 milioni di euro, adesso è stato riarrestato perché le accuse sono talmente gravi per aver fatto fallire e occultato milioni e milioni e milioni e milioni di fondi da questa fintech che appunto è stato necessario un secondo arresto. Ma su tutti i giornali tedeschi, dalla Süddeutsche alla Frankfurt Allgemeine alla Welt, ci sono queste: perché è stato riarrestato? Perché emergono nuovi legami tra questo manager e naturalmente il suo ristretto cerchio di dirigenti con alcune banche, con alcune società di consulenza e persino alcuni esponenti politici. Quindi è uno scandalo che forse appunto a proposito di Walk the Dog, spero che non intacchi, diciamo, il momento magico che tanto ha fatto anche per quello che è successo a Bruxelles di Angela Merkel, che ovviamente se dovesse saltare fuori una qualche connivenza, per esempio, dell'autorità di controllo sulla borsa, ovviamente ci sarebbero dei contraccolpi Certo, politici. un rischio molto forte. Abbiamo tempo anche per un'altra notizia. Dove vogliamo Se andare? vuoi facciamo un salto un po' in un altro continente. Allora, da una parte vi porto in Brasile, dove ieri il presidente Bolsonaro, che è tecnicamente ancora in quarantena perché ha fatto il tampone, è risultato positivo e non può ancora in teoria tornare a fare la sua vita normale, e ha fatto però un'apparizione in pubblico, naturalmente senza mascherina. E poi però il dato si scopre che anche in Brasile i 2 mesi di lockdown hanno fatto fare un boom all'e-commerce che sembra scontato, ma a parte che poi così scontato non è stato nemmeno qui, perché le cifre in Occidente sono state, se vogliamo, un po' inferiori a quello che ci si poteva aspettare, ma perché il settore era già molto maturo. Invece in Brasile non era ancora molto maturo e ci sono, sì, gli ultimi dati parlano di 5,7 nuovi milioni di nuovi consumatori che si sono appunto hanno usato l'e-commerce, e questo naturalmente è una spinta in generale per la digitalizzazione di un paese che da quel punto di vista ovviamente è un po' indietro. Insomma, al quale auguriamo anche di riprendersi da un momento molto, molto, molto difficile. Grazie Giulia Crivelli, perdonami per il ritardo di oggi, ma io non sono abituata a guidare effetto giorno. Parlavamo della regina. La regina, insomma, un po' di regina, dobbiamo avere un po' di rispetto. Grazie a Giulia Crivelli, a domani con Effetto Mondo. Io devo ringraziare anche Filippo Aureggi in regia, Jacopo De Franchi in assistenza in redazione, ed è tutto per l'effetto giorno di oggi.